Allora, nel 2023 abbiamo realizzato la prima indagine sulla salute mentale nel giornalismo in Italia e siamo partiti da un questionario che è stato diffuso a luglio del 2023 fino ad ottobre e l'obiettivo era appunto un po' sondare il terreno, cioè chiedere ai colleghi e alle colleghe come stanno oggi. E nel giro di quei mesi abbiamo raccolto più di 500 risposte. Ed è stato molto interessante poi vedere quali sono, diciamo, i disturbi che colpiscono di più la categoria. Dai dati è emerso che il disturbo che colpisce di più i giornalisti è lo stress, ovviamente, come forse molti potevano immaginare, che addirittura è all'87% dei rispondenti. L'ansia colpisce il 73% dei rispondenti, quindi è il secondo disturbo più diffuso. E poi ce ne sono altri come il senso di inadeguatezza, il senso di solitudine e di non essere compresi. La cosa che ci ha stupito è che uno su due, per esempio, parla del fatto di avere difficoltà a dormire, il 42% denuncia burnout e attacchi di rabbia immotivati. E poi c'è anche la dipendenza da internet e da social network, anche qua siamo oltre il 40%. E uno su tre parla proprio esplicitamente di depressione. Quindi quello che abbiamo potuto rilevare è che il problema della salute mentale nel giornalismo è un problema urgente che, come dire, va guardato in faccia. E secondo te la causa di questi problemi è strutturale, legata al precariato, a delle dinamiche sociali, lavorative? Una delle domande del questionario era proprio sulle cause che mettono a rischio il benessere psicologico delle persone e tra le cause, diciamo, più denunciate ci sono proprio i fattori economici, come dicevi tu, quindi compensi troppo bassi e precarietà. Addirittura i compensi troppo bassi sono molto o abbastanza impattanti per l'85% delle persone che hanno risposto, quindi è proprio il fattore numero uno. Poi ci sono comunque altre cause legate all'ambiente di lavoro, quindi ritmi frenetici, ipercompetitività. Altre cause che comunque abbiamo mappato sono quelle legate ai pericoli sul campo e alle minacce, sia minacce diciamo sull'incolumità fisica, sia legate per esempio alle querele temerarie e alle cause temerarie. E poi vi è tutto il tema delle discriminazioni di genere e le molestie sul lavoro. Chiedo quanto era ampio il campione di persone che avete considerato? Faccio una premessa che è che l'indagine non era un'indagine scientifica, non c'era un comitato scientifico alle spalle. Noi l'abbiamo definita un'indagine giornalistica, cioè come dicevo prima, l'obiettivo era un po' captare quali erano le problematiche che colpivano la categoria, soprattutto i freelance, ma il campione non è rappresentativo. Il 65% erano freelance, molti dei quali facevano anche lavori nel campo della comunicazione, nel campo dell'ufficio stampa, come social media manager. Poi c'erano anche alcuni che invece erano dipendenti dentro le redazioni, ma era comunque un campione, per esempio, molto giovane. Nella fascia 18-35 anni c'era praticamente la metà dei rispondenti. Un altro 30% era nella fascia 35-45 anni, quindi comunque fascia giovane. Uomini e donne più o meno era pari, 55% erano donne, e rispetto all'iscrizione all'ordine dei giornalisti, il 75% è iscritto. Quali sono le storie che avete raccolto? C'era una parte del questionario che dava la possibilità di dare appunto risposte aperte e lì le persone hanno parlato del loro disagio in maniera più ampia. Ad esempio, c'è una persona che ha scritto che meno di una settimana prima della firma del contratto, il direttore le ha comunicato che questo contratto non sarebbe più stato fatto e nel frattempo però questa persona aveva cambiato città addirittura per quel lavoro e scrive: "Mi sono sentita crollare la terra sotto i piedi. Soffrivo di insonnia e attacchi di apnea notturna." Questa è solo una delle testimonianze, ma sono tantissime appunto quelle che siamo riusciti a raccogliere attraverso questa parte di risposte aperte. Come ultima domanda, di illustrarci il nuovo progetto. Questa inchiesta ha avuto un impatto molto importante dopo la pubblicazione, c'è stata molta attenzione e proprio grazie a questa attenzione siamo riusciti a lanciare un secondo progetto che è Come ti senti, giornalisti mai più senza rete, ed è un progetto che cerca di dare dare delle risposte, oltre che sollevare delle domande. Siamo riusciti a mettere insieme diversi partner, che sono, oltre a IRP Media, l'FNSI, il sindacato, Casa Agit e l'Ordine dei giornalisti. E l'idea è quella di avere diverse azioni per dare delle risposte appunto ai colleghi che hanno bisogno di supporto. Innanzitutto ci sarà un evento di lancio il 21 maggio a Roma, nel quale verrà presentata la nuova piattaforma cometisenti.info, dove sarà possibile mandare segnalazioni anonime per raccontare la propria storia o delle difficoltà che si stanno vivendo. Dopodiché in autunno verrà pubblicato un libro e poi ci saranno una serie di eventi sui territori, proprio con l'obiettivo di aprire il dialogo e entrare direttamente in contatto con le persone per capire come stanno e creare anche consapevolezza sul tema della salute mentale nel giornalismo.